30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il primo dicembre di 50 anni fa veniva firmato a Washington il Trattato Antartico. 12 paesi, tra i quali Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia, si impegnavano a sospendere ogni rivendicazione territoriale sul continente, facendone un unico enorme spazio comune per la ricerca scientifica. 50 anni più tardi, l'Antartide si trasforma ancora da luogo estremo dell'esplorazione a piattaforma di ricerca di alcune tra le più attuali problematiche globali. Ancora buonasera e benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Ancora prima di presentarvi gli ospiti qui con me in studio, vorrei fare una domanda al professor Ignazio Tabacco. Allora, perché oggi l'Antartide è così di attualità rispetto a quelle che citavo, appunto, le problematiche attuali? Per varie ragioni, la principale della quale è il ruolo che i poli e l'Antartide in particolare hanno nell'assetto globale climatico di tutta la Terra. Perché, facendo un esempio, riprendendo un argomento che si sta discutendo, quello del livello dei mari, il livello dei mari sale e cresce non soltanto per il riscaldamento intrinseco degli oceani, ma perché tutta l'acqua che è congelata, chiedo scusa per il termine banale, sui ghiacciai corrisponde ad un livello dei mari, un innalzamento del livello dei mari di 70-75 metri. Cioè, per intenderci, se tutte le calotte si sciogliessero, il livello attuale dei mari crescerebbe di 75 metri. Il professor Ignazio Tabacco è geofisico dell'Università di Milano, membro del progetto Antartide. È una lunga esperienza polare, 9 missioni, ora ne parleremo, quindi lo presento come presento la nostra ospite, la dottoressa Monique De Vries, presidente del comitato direttivo del programma polare dei Paesi Bassi. Ci tengo a sottolinearlo, fino al 2008 sovrintendente alle dighe per la regione del Nord Holland. Benvenuta. Grazie. E adesso sentiremo perché l'Olanda è così sensibile a queste tematiche, ma vorrei prima continuare a capire meglio che cosa sta accadendo appunto in Antartide. Chiariamo subito un punto, professore. Lei ha citato lo scioglimento delle calotte. Grandi discussioni, soprattutto in Italia, a proposito dell'innalzamento del ghiaccio che galleggia e quello che non galleggia. Ovviamente il riferimento è al ghiaccio dei ghiacciai, per intenderci, non a quello del Polo Nord, che non interviene, non cambia, essendo ghiaccio di mare, il livello degli oceani. Certamente, il ghiaccio galleggiante è in equilibrio statico e quindi non ci sono problemi. Quello che interessa però sono i ghiacciai sul continente della Groenlandia, perché la Groenlandia, quando io ho detto che i ghiacciai possono far aumentare il livello dei mari, e ho detto una 70-80 metri, 60 sono relativi alla calotta antartica, gli altri 10 o 15 corrispondono alla massa di ghiaccio che c'è sulla Groenlandia. E quindi questo si spiega perché si parla appunto dei poli. Dunque, concentrazione di CO2 dell'atmosfera, la famosa valutazione del ppm, certo, lo scioglimento dei ghiacci polari, l'innalzamento dei livelli del mare, tre grandi fattori che portano ai poli. Certo, portano ai poli perché lì possiamo misurare con migliore dettaglio alcuni di questi parametri, soprattutto di misurarli nell'attualità e anche nel passato, in modo da poter avere la possibilità di confrontare ciò che sta avvenendo oggi con quello che è successo nel passato e quindi capirne i meccanismi. Noi abbiamo fatto delle perforazioni sul ghiaccio a Donsi e in altri luoghi, abbiamo ricavato l'andamento delle variazioni della CO2, della temperatura e in parte anche quello del bilancio di massa, cioè della quantità di ghiacci nei poli, dagli ultimi 800.000 anni ad oggi. Con una vera e propria macchina del tempo. Eh sì, la nostra esplorazione non è soltanto nello spazio, è spazio e anche nel tempo. Insomma, un'informazione formidabile. Quante volte vi sarete chiesto, anche nei film della Disney mi vengono in mente, che si aprono con scene di carotaggio, cosa staranno facendo? Bene, sì. I carotaggi sono un'attività di lettura della storia. Esattamente, cioè il concetto è questo. I ghiacci delle calotte si sono formati per la precipitazione nevosa che avviene ogni anno e quindi accade che la neve che cade in quest'anno sarà sepolta dalla neve dell'anno prossimo e al contrario quella dell'anno scorso è stata coperta da quella di quest'anno e quindi abbiamo una serie di pagine di neve relative a tutti gli anni che si sono succeduti nel tempo. Quanto tempo, quante pagine ci sono sulle calotte antartiche? Noi abbiamo scoperto una zona, Don Si, in cui avevamo 800.000 anni di pagine, dove abbiamo in successione dall'alto verso il basso, pagina per pagina, anno per anno, lo straterello di neve che va da oggi a 800.000 anni fa. Allora, insomma, abbiamo imparato come idea a farlo con gli alberi, invece voi l'avete fatto col ghiaccio. Quanto è profonda la carota? La perforazione è profonda, 3.275 metri. Formidale. Però le carote le tiriamo su a 3 metri per un volta. Un pezzo alla volta, ovviamente, certo. Perché l'insieme sarebbe complesso. Torneremo a parlare di questo e della ricerca. Le vorrei fare una domanda sul Trattato Antartico. Sì. Il Trattato Antartico, dicevamo, che è un po' lo spunto di questa trasmissione, firmato 50 anni fa. Sì. Definire che un intero continente è fuori dalla portata, diciamo, delle rivendicazioni territoriali è di per sé rivoluzionario. Certo. È accaduto qualcosa di assolutamente unico nella certo. storia dell'umanità. E certo, e questa è la cosa che purtroppo è stata sottovalutata per... Noi non ricordiamo questo che è un evento grande, ma non c'è soltanto questo aspetto, che insieme alla rinuncia per altri 50 anni alle rivendicazioni territoriali, il trattato prevede l'ingresso di tutte le altre nazioni che vogliano aderire al trattato, ai suoi principi e ai suoi doveri che vengono imposti dal trattato stesso, che sono quello di fare ricerca esclusivamente, di non fare sfruttamento economico delle risorse né marine né minerarie, e di costruire delle basi nel rispetto dell'ambiente. Ed oggi i paesi firmatari del trattato sono diventati, dai 12 di 50 anni fa, sono 47, e sono tutti i maggiori paesi industrializzati e colti. Chiedo scusa per il termine un po' aristocratico, colti nel senso di cultura scientifica e di capacità di lavoro scientifico. E quindi il successo del trattato è stato enorme come adesione, ed è la sua forza e qualche volta anche la sua debolezza. Perché... Vedremo anche di approfondire questo aspetto. Dottoressa De Vries, a proposito di nazione colte, io lo interpreto anche in senso, non esclusivo, l'Olanda lo è senza dubbio, fa parte del G8, fa parte a una tradizione storica di navigazione formidabile, basterebbe citare come viene fatto Willem Barents, straordinario esploratore e di fatto colui che per primo aprì la via verso nord-est, ma ribadisco, un paese del G8 che però ha delle problematiche per certi versi simili a quelle dei paesi del terzo mondo. Come mai l'Olanda è così interessata sull'Antartide e sulle problematiche del cambiamento climatico? L'Olanda è situata in un delta di tre grandi fiumi, il Rhino, il Meuse, Schelde. È situato per 25% sotto il livello di mare. Senza le dune, senza le dighe, l'Olanda non ci sarebbe. Noi abbiamo bisogno di grandi lavori per sopravvivere, per difendere il popolo, l'industria, l'agricoltura, tutto. Adesso anche abbiamo l'ossidazione del suolo, così anche da noi andiamo in giù tutto il tempo. E per noi seguire e partecipare nella ricerca scientifica nell'Antartide, ma anche nell'Artide, è importante, perché quando vediamo l'innalzamento del livello del mare, molto più questo secolo che i secoli passati, sarà necessario di avere il denaro, di avere più dighe, di avere piani per evacuazioni per il popolo. Adesso prevediamo, almeno il PC prevede, un innalzamento del livello del mare da 35 a 60 centimetri. È quasi la tavola da mangiare. Può anche essere... che non sembrano molti, non però... però forse non si pensa che in un'azione che è tutta piatta, quando lo dico bene, 70 centimetri è molto, perché vuol dire chilometri, chilometri, tutte province che sono sott'acqua. Insomma, l'Olanda ha sperimentato peraltro in passato, negli anni 60, una tremenda inondazione quello che ci sta ricordando, che in fondo noi studiamo persino a scuola, è che è un paese letteralmente costruito dalle mani dell'uomo in gran parte. La popolazione di 16 milioni di abitanti oggi, se non sbaglio, è concentrata peraltro nelle zone più esposte. Quindi non si tratta semplicemente di aspettare che l'acqua riesca dopo un'inondazione. In Olanda l'acqua non esce, va pompata fuori. Non esce perché siamo sotto il livello del mare, così abbiamo bisogno degli uomini, non disparisce da sé. C'è bisogno di un intervento umano. Io ricordo, ringraziando peraltro la dottoressa De Vries, che molto gentilmente interviene in questa trasmissione parlando in italiano, forse vale la pena di spiegarlo perché è anche un passato di studi in letteratura, quindi gli ho chiesto questa cortesia, visto che siamo in radio, di contribuire con appunto la sua conoscenza della lingua italiana, e la ringrazio moltissimo a questo proposito. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque in questo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Ve lo ricordo, i nostri ospiti di questa sera: Ignazio Tabacco, geofisico dell'Università di Milano e membro del progetto Antartide, e Monique De Vries, presidente del comitato direttivo del programma Polare dei Paesi Bassi. L'ho ricordato, fino al 2008 sovrintendente alle dighe per appunto una regione olandese. La dottoressa De Vries ci stava spiegando quanto sia urgente per un paese come l'Olanda conoscere ciò che accade ai poli e intervenire su ciò che è registrato, l'innalzamento del mare. E su questo vorrei essere chiaro. In Italia in particolare c'è una grande polemica, a volte molto strumentale, sui cambiamenti climatici, sulle ragioni, sui legami tra la CO2 e l'innalzamento, eccetera, eccetera. Qui non è l'occasione per coltivarle, ma ci sono dei paesi che stanno registrando dei fatti. L'Olanda, lo dicevamo, un paese del G8, un paese con una capacità anche di spesa e di intervento, si preoccupa del suo futuro. Per voi l'innalzamento dei mari non è un'ipotesi, è un fatto. È un fatto, lo vediamo il cambiamento della pioggia, vediamo il cambiamento anche dei grandi fiumi, ma il mare è un gran parte dell'Olanda. Il governo ha puntato un comitato prestigioso nel 2008 per fare parecchi scenari, cosa fare questo secolo per proteggere la popolazione, proteggere i Paesi Bassi. Questo comitato ha usato due scenari. Un scenario con solamente un innalzamento di temperatura di 2 gradi e un scenario caldo con una temperatura 4 gradi. In questo caso, con una temperatura più alta, abbiamo più espansione dell'acqua degli oceani e così un innalzamento, e ci sarà più ghiaccio dall'Artide, specialmente dai poli che si scioglie. Ecco, come intervenite? Lo dicevamo, lo ribadisco, un paese che ha le possibilità economiche, che investimenti ci sono intorno alla tutela del territorio olandese? Dall'anno 2020 ci sarà un budget di 1 miliardo d'euro ogni anno per rialzare le dighe, per fare una costa più ampia, così, perché non si può fare delle dighe di 10 metri alla costa. È anche pericoloso, quando qualcosa fa male c'è ancora un disastro, per fare delle dighe nei fiumi, ma anche per preparare regioni dove l'acqua, quando c'è troppo, può stare per qualche tempo, fino al momento delle sorte di grandi vasche di compensazione. Certo, il nodo è ancora una volta quello di cui parliamo in questi giorni, insomma cercare di capire che cosa sta accadendo. Professore, non è semplice, non è facile per gli olandesi, non è facile per noi, c'è obiettivamente, come dire, un percorso tutto da fare. Io sono felice di sentire la mia amica e di ciò che fa l'Olanda o che farà, perché il problema non sono i cambiamenti climatici. I problemi sono l'adattamento dell'uomo ai cambiamenti climatici, perché l'uomo da sempre ha vissuto con dei cambiamenti e la sua vittoria è stata quando è stato capace di adattarsi alle nuove condizioni, o la sua sconfitta è stata quando non è stato così lungimirante. Quindi il problema è duplice: uno è ciò che accade, l'altro è qual è la condizione umana rispetto a ciò che accade. E a questo punto viene fuori una cosa abituale: si chiede alla scienza che cosa bisogna fare, e taluni dicono: noi non facciamo nulla fin tanto che non abbiamo la certezza del futuro. Questa è una cosa che ha fatto sparire delle civiltà, perché non esiste un rapporto sequenziale so e faccio, perché i tempi del sapere e i tempi del fare sono differenti. E l'uomo non è mai stato in grado di sapere tutto dell'oggi e del domani. L'uomo non è una divinità. E allora bisogna saper convivere con la ignoranza, la parziale ignoranza di ciò che accade, e decidere con lungimiranza, col buonsenso, col rischio di sbagliare a quello che accadrà dopo, per non piangere poi successivamente da solo sulla divinità cattiva che ha fatto alzare il livello del mare. 10-12 mila anni fa l'Olanda non c'era, perché il livello del mare era più basso di 120 metri rispetto ad oggi. È una nazione giovane, quindi mi piace questa nazione così giovane. E quindi la posizione duplice, primo, di operare per impedire che accada ciò che sta accadendo, è sbagliata in linea generale, perché non ci si deve opporre a ciò che accade. Se c'è un'influenza dell'uomo su ciò che accade, bisogna cercare di minimizzarlo. Ma, ed è questo il nodo, qualunque sia la decisione di Copenaghen, qualunque sia la decisione dei paesi sviluppati per minimizzare una cosa, anche ammettendo che ci sia la capacità di tornare indietro facendo queste cose, il tempo necessario perché gli effetti di interventi lungimiranti possano essere efficaci è un tempo non lunghissimo, può essere 30, 40, 50, 60 anni. E allora noi non dobbiamo pensare a quello che faremo dopo i 60 anni, dobbiamo parlare di questi 60 anni a partire da oggi. L'Olanda ha preso una posizione formidabile, di grande responsabilità, di grande livello culturale, perché sa che anche se non siamo sicuri dobbiamo pensare al futuro. E si giocherà il suo futuro, potrà vincere, potrà perdere, ma questa è la condizione che altri paesi, e non voglio citare altri paesi. Ecco, invece facciamolo, io voglio, perché abbiamo parlato molto dell'Olanda, che è un caso interessantissimo, però vorrei almeno in conclusione una battuta sull'Italia. Ecco, Antartide, progetto polare, insomma l'Italia ha tutta una storia, non vorrei farla ora, è molto lunga, molto affascinante, certo. Quindi non ci manca il background storico dell'esplorazione. Certo. Oggi però so che ormai da quasi 2 anni e mezzo siamo veramente con, come si dice volgarmente, la canna del gas rispetto, certo, ai finanziamenti sulla ricerca. È vero, mi sono perso qualche passaggio? È tristemente vero. Noi abbiamo avuto un budget decente per fare la ricerca con i nostri colleghi stranieri di tutto il mondo fino al 2003-2004. Da allora noi viaggiamo con dei finanziamenti che sono un terzo di quello di cui avremmo bisogno, e abbiamo i soldi soltanto per mantenere le due basi che abbiamo costruito in Antartide, una insieme ai colleghi francesi, e non facciamo più ricerca. Questa è una cosa, ma c'è una cosa più grave, che è legata, perché questa vuol dire miopia, perché se uno non investe in cultura non investe neanche nel futuro, che l'Italia non ha una politica ambientale che sappia gestire l'oggi da qui a 30-40 anni, e non è capace di prevedere. Nessuno si domanda nel nostro governo: e se l'accordo di Kyoto salta, cosa facciamo? Ce lo chiederemo tra 40 anni, quando l'accordo di Kyoto salterà? Allora, non un governo, i nostri vecchi rischiavano, e noi dobbiamo capire che dobbiamo prendere delle decisioni oggi per il futuro, guardando tutti gli scenari, che non sono solo quelli che dice la mia amica, o 2 o 4 gradi, ma l'incertezza su Kyoto sì o Kyoto no, cosa accadrà? E noi siamo assolutamente impreparati, abbiamo un'inconsistenza di cultura governativa, ma anche di cultura del paese, e se mi permettete, spesso anche con responsabilità oggettive dei soggetti della ricerca che siamo noi. Noi abbiamo delle colpe sul piano culturale, lavoriamo bene, ma spesso non comunichiamo con correttezza l'informazione scientifica. Grazie professor Tabacco. Allora dottoressa De Vries, in conclusione, l'Olanda non ha tempo da perdere, che cosa vi aspettate da Copenaghen? Spero almeno una base di capirci, un volontà di cominciare, come il professore ha detto, niente certo, ma sappiamo per sicuro che qualcosa cambierà con il clima e forse durerà 200 anni. Dal punto di vista climatologico forse è in inglese un dip, certo. Ma è per 5-6 generazioni, certo. È di grande importanza. Così spero che Copenaghen ci porta almeno un piccolo passo per andare avanti. La ringrazio molto e ringrazio naturalmente il professor Tabacco di essere stato con noi e Valeria Bernardi in regia. Questa puntata si conclude, come sempre la potete sentire e risentire su radio24.it. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo.